la necessità di un'interpretazione letterale. Una regola fondamentale per interpretare la scrittura è mantenere sempre un'interpretazione letterale. Questo principio fa arricciare il naso ad alcuni credenti rispettosi della scrittura, perché un tale atteggiamento a volte ha condotto alcuni ad affermare cose assurde. A prescindere dal fatto che gli errori di interpretazione si commettono con qualsiasi criterio si assuma, se si commette un errore con questo metodo, ciò non è causato dal procedimento ma dall'interprete. Come disse un noto apologeta cristiano, molto spesso quando parliamo di cose non percepibili dai nostri cinque sensi, usiamo parole che, in uno dei loro significati, si riferiscono invece ad azioni o cose percepibili. Quando per esempio uno dice di aver afferrato un ragionamento, usa un verbo afferrare, il cui significato è letteralmente prendere qualche cosa stringendolo con le mani, ma certamente egli non pensa di avere una mente fornita di mani e di poter prendere un ragionamento come si prende un fucile. Per evitare la parola afferrare, egli può cambiare l'espressione e dire «vedo il tuo punto di vista», ma non intende affermare che un oggetto con un punto sia apparso nel suo campo visivo. Questo può usare una terza espressione e dire «ti seguo», ma non intende dire «ti sto camminando dietro lungo la strada». Tutti hanno familiarità con questo fenomeno linguistico che i grammatici chiamano metafora. Ma è un grave errore pensare alla metafora come a una facoltà utilizzabile solo per abbellire le opere di poeti e prosatori, mentre l'uomo comune dovrebbe farne a meno nel proprio linguaggio corrente. La verità è questa: se dobbiamo parlare di cose non percepibili ai sensi, per forza dobbiamo ricorrere a un linguaggio metaforico. Ogni discorso sul supersensibile è e deve essere metaforico al massimo grado. Quindi è naturale che chiunque parla di cose non visibili, non tangibili, non udibili o simili, deve inevitabilmente parlare come se potessero essere vedute, toccate o udite. Quando certe persone dicono questa espressione ha un significato metaforico, concludono che sia quasi priva di significato. Pensano correttamente che Cristo parlasse metaforicamente quando esortava a portare la croce, ma erroneamente traggono la conclusione che portare la croce significhi condurre una vita rispettabile. Pensano al fuoco dell'inferno come a una metafora e ne traggono la conclusione che non significhi nulla di più serio di un rimorso. Ma questo modo di interpretare è privo di senso almeno per due motivi. Prima di tutto, il senso della metafora ha un significato letterale da non dover travisare, capovolgere o annientare. Se affermo «ho il cuore infranto», il suo significato letterale è che sono sofferente. E non può in nessun modo essere interpretato come «sono contento», perché si farebbe dire alla metafora ciò che non vuol dire. Così quando Gesù disse «io sono la porta», la ragione e il buon senso ci dicono che egli non stava dicendo di essere un uscio di legno o comunque un'apertura munita di battenti, ma una via o un mezzo di passaggio. Infatti egli è letteralmente la porta. L'apertura per andare in cielo, perché fra l'uomo e Dio vi è la barriera del peccato. Quando Gesù disse «se il granello di frumento caduto a terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto», GV Mezzogiorno e 24, parlava in metafora della sua morte, ma tutti gli elementi contenuti nella metafora erano letterali. Anzi, il loro significato letterale esprime, in modo limitato e debole, una realtà divina. Questo ultimo pensiero ci porta alla seconda ragione per cui è sbagliato e irriverente: dare al linguaggio religioso ricco di immagini nessun senso o un significato contrario al senso letterale. Il linguaggio metaforico è inferiore alla realtà a cui si riferisce. Senza voler entrare in discorsi difficili, possiamo vedere un esempio nella costruzione del tabernacolo. L'autore della lettera agli Ebrei ricorda ai suoi lettori che esso fu fatto secondo il modello che era stato mostrato sul monte. EB 8, 5 con es 25, 9 40, nu 8, 4. Questo significa che il tabernacolo con tutti i suoi arredi era, come afferma l'autore della lettera agli Ebrei, ombra delle cose celesti, cioè esprimeva in modo imperfetto una realtà perfetta. Nello stesso modo dobbiamo ritenere tutte quelle affermazioni di carattere umano che riguardano Dio, non perché Dio sia inesprimibile, ma perché il nostro linguaggio è inevitabilmente impreciso. Quando affermiamo che Dio ama, dobbiamo stare attenti a che cosa immaginiamo. La passione d'amore è qualcosa che ci capita, come ad un corpo capita di bagnarsi. Dio non può essere colpito dall'amore perché è amore. Immaginare quindi l'amore di Dio come qualcosa di meno torrenziale o di meno forte delle nostre passioni temporanee è una delle fantasie più disastrose che si possano avere. Comprendiamo quindi come la vita terrena, sia materiale che immateriale, non è altro che un riflesso, e per di più corrotto, di quello che Dio è. La realtà ultima delle immagini non è più indefinita, più inerte, ma più positiva, più dinamica. Quindi ogni volta che usiamo parole e immagini terrene per definire o esprimere il Dio Trino, la realtà, ci troviamo ad essere come colui che vuole costruire qualcosa di perfetto con elementi imperfetti. Diamo quindi al linguaggio immaginario la sua letteralità, perché se esiste una letteralità reale, esiste pure la letteralità simbolica, ovviamente legittimata dall'insieme della scrittura. Il senso letterale rimane quindi il solido ed indiscutibile fondamento sul quale è possibile comprendere ed interpretare rettamente tutti gli altri sensi o mezzi interpretativi della parola di Dio, quali quello storico, allegorico, morale, analogico. Ecco un esempio di come ci si deve accostare alla lettura della parola di Dio. Nel libro degli Atti viene narrato l'episodio dell'incontro di Filippo con l'eunuco, ministro di Candace. L'etiope stava leggendo nel libro di Isaia una profezia espressa in parabola riguardante Gesù. Egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello, che è muto davanti a colui che lo tosa. Quasi tutto il capitolo 53 di Isaia è figurativo, eppure l'eunuco non aveva dubbi sulla sua letteralità perché chiese a Filippo: «Di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro?» Se l'eunuco si fosse accostato alla lettura dei profeti, vedendo simboli e figure senza significato letterale, non avrebbe capito molto del messaggio di Dio e non avrebbe chiesto di chi parlasse il profeta. Anche nel Salmo 22, chiaramente cristologico, è descritta la sofferenza e la morte di Gesù sulla croce, ma la descrizione meno che non era indirizzata a descrivere la situazione così come è avvenuta letteralmente meno, è puramente analogica. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Bashan mi hanno attorniato, aprono la loro gola contro di me, come un leone rapace e ruggente. Versetto 12-13. E ancora, poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Versetto 16-18. Morendo, Gesù non era circondato da cani o da tori, ma non vi è dubbio che le persone, meno, o i malfattori, come dice il Salmo, avessero la prepotenza di tori e parlassero come un abbaiare di cani. Però, in questa descrizione metaforica esiste anche una letteralità reale, perché Gesù effettivamente ebbe i piedi e le mani forate, e ne tirarono veramente a sorte la tunica. Perciò, la scrittura mescola la letteralità reale a quella simbolica, e questo perché noi considerassimo letterale e vero tutto ciò che è scritto. Diversamente, se Dio ci avesse dato il compito di distinguere espressioni vere da quelle false, ci avrebbe dato una mansione impossibile e tra l'altro di sua unica competenza. Una cosa va detta e ripetuta. La Bibbia non è stata scritta per degli iniziati. Se noi crediamo che mediante essa Dio abbia voluto parlare all'uomo, non possiamo supporre che abbia nascosto la sua verità alle intelligenze normali e che occorra cercare un senso nascosto dietro il significato letterale. ne consegue che anche dietro a espressioni simboliche si celino meravigliose verità. Un esempio possiamo vederlo nel Salmo 114. Quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe da un popolo di lingua straniera, Giuda divenne il suo santuario e Israele il suo dominio. Il mare lo vide e fuggì, il Giordano tornò indietro. I monti saltellarono come montoni, i colli come agnelli. Che avevi tu, o mare, per fuggire, e tu, o Giordano, per tornare indietro? E voi, o monti, per saltellare come montoni, e voi, o colli, come agnelli? Trema, o terra, alla presenza del Signore, alla presenza del Dio di Giacobbe, che mutò la roccia in un lago, il macigno in una sorgente d'acqua. Non vi è dubbio che l'autore del Salmo stia descrivendo degli avvenimenti reali, perché il popolo di Israele effettivamente uscì dall'Egitto, divenne proprietà dell'Eterno, il mare si divise e dalla roccia Mosè fece scaturire dell'acqua. Ma usa anche delle immagini simboliche, dicendo che i monti saltellarono come montoni e agnelli. Come possono dei monti e dei colli saltellare come montoni? E un'espressione senza valore, oppure il salmista con queste immagini vuole comunicare qualcosa di vero? Ebbene, se vi è una cosa ferma in questo mondo sono proprio i monti. Eppure, quando avviene un terremoto, allora essi possono saltellare come vitelli o giovani bufali. Molto probabilmente, meno, e possiamo dire di certo, meno quando il mare dei giunchi, e non mare rosso come viene comunemente chiamato, si divise in due in quel momento, fu causa o favorito anche da un forte terremoto. Questo è quello che successe e che il salmista ha descritto in modo simbolico o con una parabola. Lutero aveva ragione quando disse: «Io ho osservato che tutte le eresie e gli errori riguardanti le scritture non derivano, come si va dicendo un po' ovunque, dalla semplicità delle parole, bensì dal trascurare questa loro semplicità e dall'ostentare cervellotici sensi figurati o deduzioni». Proprio in questi giorni leggevo un libretto di un famoso e stimato teologo dal titolo «La fede cristiana evangelica», il quale riguardo all'inferno scrive: «Per quel che riguarda l'inferno, non possiamo prendere alla lettera le diverse immagini del quale la Bibbia descrive il giudizio di Dio. E ancora, alla fine i ribelli saranno annientati?» È difficile rispondere a questa domanda perché la Bibbia stessa non risponde in merito, e proprio vero. Come dice il profeta Geremia, i savi saranno svergognati, spaventati e catturati. Ecco, hanno rigettato la parola dell'Eterno. Quale sapienza possono avere? GR 8.9 è un interrogativo inquietante al quale tutti dobbiamo rendere ragione. Dicembre 2007. Ellero.